che rispondeva dalla macchina, poi arrivava a casa e adesso è tutto completo, non c'era più nessuno, capito? Infatti mi stavo assillando anche per quello, perché non potevo fare le cose che volevo. Ci siamo soprammodulati. Stavo dicendo Gianni, io da quando sono stato l'antenna, Augino lo diceva molto meglio. Prima arrivava Santiago 5C, spostando l'antenna, lo dicevo sempre Santiago 9-5 con picchi positivi 9-10, e Radio 5 per la infante. Ho recuperato molta ricezione. Avanti Natalia. Ma quale hai messo? La Mantova? No, io ho sempre quella Veno, come cavolo si chiama. Ah, la Veno. Sono belle antenne quelle, se le posizioni bene vanno bene. Cappa, un'antenna che costa poco, trasmette bene, riceve bene, quello mi interessa. Vedi, adesso sono quelli rinforzati, piccolini, in alluminio. Se si può la corrasso, non le va a zenuta. Ok, avanti Eugenio. Vabbè, comunque ben sentiti, buonasera a tutti di nuovo. E ogni tanto rientro già, ti ripeto, quando mi viene bene. Si muovono le occasioni, però ce l'ho sempre acceso, Non me lo spengo mai apparato. Ah, cavallo. Vabbè, a portatore si è rotta, non ce n'è più. Non c'è più nessuno. L'altra mattina ho sentito un Mario così sfuggita, ma non c'è più nessuno. Portatore sarà mai. Non c'è più nessuno, tutti morti. Ed era tutto pieno, mi ha potuto la venire un bel di CB. Ma un bel, solo nella zona satellite era tutto pieno. Lo so, ma purtroppo le colonne portanti del canale 12 sono tutte morti. Sono tutti morti, poveracci. Aspetta, c'è che attacco la radio, che voglio sapere come ti arrivo. E io sono qua. Oggi io di satellite mi ricordo tantissimo tempo fa, parlavo con Tonino Altana. Sì, ma mi sto parlando degli anni 80. Cappa. Sì, li ho conosciuti tutti, io vabbè, ragazzino. Dopo avevamo anche la serie bella sul mare, all'Arena Regia, il CB, bellissimo, era bellissimo. Io mi ricordo che era dove c'è il tabacchino più o meno sopra. Come? Che Torino abitava dove c'è il tabacchino, uno di quei porto, non mi ricordo con esattezza, ma era in quella zona, dove mi lascio satellite. Sì, certo c'era il tabacchino, sì. È passato molto tempo, capito. La buon'anima di Giampaolo Silvestro, caspita, via Levinia, eia. Poi non mi ricordo se si chiamava Papa Whisky, se c'è ancora, il produttore si è via Toro Sacchi. No, è morto anche lui, il poveraccio, Giampaolo, poi c'era Zio Carlo, Fittano, morto anche lui, poi c'era il signor Gilberto, Bartolomeo, è morto anche lui. E ce ne ho tanti, Angelo Asso, vabbè, quello non è morto. Ce ne ho tanti, tantissimi. E sta gente che ha smesso. Io mi ricordo nei primi anni 80, praticamente parlavo sul canale 1 Paranautica. Non mi ricordo Paranautica 1 come cavolo si chiamava, e sono sceso, non mi ricordo, una cassa di birra, abbiamo contrattato, lui ha trovato la cassa di sardine. Ma per me, io vengo, te la pago, no, dice tu, mi porto una cassa di birra e te la sto dando, io ci ho comprato in presa. E la sera mi lancio riuscita in campagna, ma lo sai che non te la buona oggi. Oi. E Giovanni Paranautica fece. E mi pare. E schiattato anche lui. Un casino, Eugenio, buonasera. Buonasera, Cali, ma tu sì. Ma neanche la modulazione riconosci, Bobo, California era questa, ciao Eugenio. Buona, sono Mario California, buonasera. Andiamo bene, Bobo. Allora Eugenio, me ne mi ascolta quella dove Porto Torres. Ho detto, Natalino, ma poi sì, Natalino non lo sento, tu mi arrivi a 9, perfetto, alla grande, con picchi positivi. dietro un po' a sinistra. No, di sfuggita ho cambiato per la salita. Buonasera a te, buonasera a tutti. Signore, scusate che non ho citofonato. Ehi, vabbè, adesso ti volevo chiedere come arrivavo con questa radio qua, dopo me lo dici. Vai, tranquillo, vai, sai tanto fatto con mia moglie. Cappa, guarda il segnale a vedere come ti sta arrivando, c'è di radio devi segnare. La radio è perfetta, il segnale è 9, già. Già va bene, dai. Già andava bene. Scusate un attimo, medico fiscale. Cappa. Franco, ti stavo chiamando poco fa, sei sparito. Ha chiamato l'amicoltura Raimondo, la regia che hanno dato a caldere con tanti mezz'ora. Guarda che è anche amicoltura mia. Ehi, vabbè, ma dico, mi ha chiamato lui, capito? Ma ti ho chiamato tre volte e non ha risposto, ti pare che mi ha chiamato una volta solo, perché nel telefono risulta una chiamata, no? E anche quando chiama Gianni non è che ci dà due minuti, no? Una volta mi ha chiamato Gianni e tu pensa che io mi sono fatto due volte cammino, lui sempre parlando, mi sono fatto il fisolino, mi sono svegliato, lui stava sempre parlando. Non credere, non li credere, ma... Ma voi ci fa vedere, due. Ebbene, io vedi la cosa e ti rispondo. Però giustamente mi portavo il telefono appresso. Le cammino, le uova, poi il pisolino, parlavo nel sogno. Preparando da mangiare, ho mangiato, sempre parlando con lui. Io mangiando e lui parlando, e a volte non riesco a rispondere anche lui la bocca piena. O se no non parliamo di Stefano, e anche lui è un po' lunghetto. Ma a me fa piacere quando sento un amico, poi dipende sempre dalle persone, no? A me fa piacere fare un discorso anche con Stefano che è lontano, capito? E quando lo sento mi fa piacere. Ma anche a me, io ho rotto la battuta nel senso che l'ho fatto due volte cammino, il pisolino. Io ci sto come volentieri che non mi chiama Stefano, o come mi chiami tu, mi chiama Franco, non c'è problema, Raimondo, capito? Non c'è problema. Sì, vabbè, ti farà chiacchierata, già c'entra. Vabbè, Raimondo, già lo sai quando se ti piace farsi la chiacchierata da solo, quindi ha bisogno un po' di compagnia, capito? Guarda, mi ha detto che stava guardando la televisione, poi è andato un amico a trovarlo, capito, vicino lì. Ma tu domani già si legge, fra? Domani mattina dovrei scendere, c'è anche il casinato che deve avere questo cancello, cosa c'è da fargli, capito? Sì, perché molte volte io lo suono, devo scattare per la bambina su cancello. Perché a volte non apre perché non ritorna indietro il coso del magnete che c'è nella serratura elettrica, capito? Sicuramente ci chiama ogni tanto. Perché ti fanno suonare quella serratura, io ho detto qua se vuoi fare un bel lavoro bisogna tagliare e cambiare tutto. E allora, non prende nuova la serratura e buonanotte. E oltre ai sacchi di affoglienti, si mette il tornuovo lancia per problemi, schiaccia il pulsante e si apre subito. Invece di altri ore spingendo entrando dentro un casino. Ma lui non è vuole spendere 150, dice che costa dare 150 e 200 euro con la serratura. Capito? Si costano me, anche il prezzo. Sono serratura elettrica a 12 volt, giustamente. E c'ha la bobina a 12 volt, certo. Mi ha detto lascia questa, ma tu hai detto pareggio lo scocchetto, e la serratura c'ha problemi, a volte si incanta il coso, il magnete, non ritorna indietro e rimane chiuso il cancello. Allora, io sto cacciando muovendo i padri, casino che. Perché ho provato i figli e sono buoni. La corrente arriva il pulsante quando schiaccia lui. Però non ce la fa la serratura. Ma l'hai visto che non ritorna indietro. A volte ritorna a volte, capito? O si punta da qualche parte. Vedo la pavia tutto. Te lo dici domani scendi con le cicchiere tonde, lampade e tutto, e fa un bel lavoro così non ci metti più in mano. Avanti Gianni. Non hai mai fatto quelle navi così di facciate tutte in terra, e praticamente è venuto tutto nuovo. Così ha finito di soffrire quel cancello tu, capito? Infatti. Comunque Gianni l'ho chiamato Protonella, eh? A proposito di Protonella, io ho preso le parti da Protonella, ma l'ho fatto male, lo sai, ma l'ho fatta male di stomaco. Ai ai ai, io ho avuto le tre sono le tasse dalla pagoda, e boh. Io l'ho preso da quella, due giorni di diarrea, la cosa, come si chiama, la fritella. Addirittura. Non è che ti ha messo il gutto l'ax e mezzo? Non ne so, non ne so, mi hanno fatto male, quindi io lì in pasta non la compro più. A me non mi hanno mai fatto male. male, io andai a mangiare un rigiolo in kiwi, sicuramente non l'hai mangiata a calda, la frittella, oppure non era la frittella, era qualche cos'altro, perché io l'ho sempre comprato lì, e vanno bene. Certo, pagoda è un'altra cosa, c'è il nome, io tutte le feste che ho fatto per i miei figli e cose ho fatto sempre la torta alla pagoda, torta, dolcini, tutta questa roba qua, tutta la pagoda. Ho capito già, io ho mangiato la frittella che era calda, capito. Siccome allora io sono partito presto, dovevo partire a Sant'Antioco, quindi ho detto che fare una profonda e prendiamo le paste, ho bisogno di paste e mi hanno fatto male, a me mi hanno fatto male, a Lucia non aveva fatto niente, la sorella neanche, solo a me ha crebato, vabbè che loro frittelle non hanno mangiato le pesche. Ehi, a fra, calde non si mangiano mai, perché la crema calda ti fa quell'effetto. Aspetta già, effetto, ma effetto però E sono buone calde, allora vi vuole un panolino. E come è fatto col viaggio? Ah no, guarda, sono arrivato alla 131, all'uscita della galleria, e invece era un po' di spazio, mi sono confermato che non era fatto la bulla. E meno male, la fortuna è la bulla in corso, c'è una patagina che è macchina, perché me la porto sempre appresso. Campagna! Una cosa che era la mia, non potete fare io, quando ero già a Zanzibar, stava facendo la unghia, dove è il gusto? Devo fermare, fermo, fermo, ci ho fermato lì, mi sono accostato lì a Saccaggia, a lui, ma per la base della Bibbia, di tanto non ho detto un viaggio, ah, ti va anche il pantalone, no, nel senso, e tu mi dovrei andare lì, perché non c'è un bacio di pantalone. E guarda, stavo scrivendo i crappi, ragazzi, questo io guardo è un casino, e se devi fare, non c'è il posto per farlo, sì, in un punto, ti vengono questi crappi e ti va, se manco cammina, è un bel feo. Una volta c'è andato a lavorare di fronte a Graziella, ho visto questo tipo, si ferma con la macchina, si abbassa il pantalone, mezzo carrina, e comincia a devo dire che era così. E forse male già, mica fa male a lei, perché non c'è altra cosa che con i crampi a questo. Tra l'altra volta a Torino la Baia Sardegna lo stesso, no? In questa pelle. E tu vai e chiedi lì, no, non la vergogna, e allora, non ce la faccio più, non ce la... Allora ha pigliato la buccia dei bombetti, ha preso questa busta di bombetta, se l'ha messa dietro e ha scaricato, perché nel bombetto ci poteva entrare, cazzo, un fiamma. Oh, cazzo intende, noi si è pigliato la buccia, si fa secondo la vita di non lo mio scambiare. È feo, è altro che lì, è feo, quando ti capita fuori, sì che ti succede in casa è un conto, ma quando sei fuori è un casino. La malattia a me, io qualche volta mi è successo, ma carità, non è bubia più. Se no non abbia più la nave, ieri, abbiamo preso la nave, la portatore su Genova, per andare a Cosova, ci avevamo il corso via Pordenone. Un paramonte era mal di venti, una pubertà, fa pastiglia, aveva dentro il sindrome di città. Fatto un mal di... A me non ha fatto dormire, perché era sempre, oh, io al dente, oh, io non mi posso più. Non ci sembra dormire da romanzare, non è che dormire in giro monti, a chi cazzo non riusciva a cadrui. E mi cosa trovavo in testa sicuramente, mamma mia. Come ci siamo arrivati lì a Pordenone, lui ancora mal di venti. Noi ci siamo andati in farmacia e ha preso quella specie di fiala col cottone, il dottor Cana. La fortunista ha dato qua per un legno, mi ha alzato. Vediamo se è rientrato, Eugenio, ci sei? Se no nel tempio, nessuno si sa vedere a me. Raccontaci da lì. Sì, andando al tempio, arrivato quasi a metà strada. Mi veni, ci attacco, di emorroidi. Sono arrivato al tempio a un ganso. Ma come non te ne caghetti però? Sì, ma un durori. Oia! Con sono gente dove muoviti? Ehi, alla bio. A chi soffrivo di chisso io. Se una volta ha leccito appena la mano a Franco, mi era invitato a pranzo da Franco, e leccito la mano di Roberto Varone, non ha che da questo pazzese sono guisciato. Questo Bevarone aveva fatto un mio con lui, ho dato un baratto, cazzo. Io non mi ero in lei, figlio di Lucia, guardate, no, via, fa la troppa asciutta. Guarda, ti piace per però, lo vuoi Giulio? Sì, dammelo, ma questo non è che sia. Se ne ha avuto quattro gocciali di 6 anni. No, ci ha mangiato la pasta asciutta, non ha fatto nulla, loro sono abituati al peperone, capito? È troppo forte. Ma si soffre di sui suffluio. Stai attento pure Bevarone a chi guai. A quello ricordi la volta che ero invitato a casa tua, fra? Una settimana cazzo soltanto, con il tuo pazzismo, mi adoro, riga. Ma per me fa la arrabbiata erano quelle, sì, io me lo ricordo, via. Cazzo, per carità. Vabbè, comunque, allora, se tu mangi la panetta arrabbiata, roba del genere, qualunque cosa, anche se c'è il piccante, non ti fa niente al momento, capito? Il problema è se poi tocchi il vino da Luma, ma come te la faccio? Infatti a Luma, ma com'è che io roba piccante non ne mangio? Ma a me comincia mi piace, però a me piace che per me fa la matata, lo tomo, roba che non ho più visto la verità da un bel tempo. Però gatto, già la giusufetti dei morruidi, e lo tomo cosa è, cucciga. Ma lo fai dato l'hanno operato qua a Sassari, ai morruidi, capito? Tu non riusciva a lui soffriva di brutto, ma che non poteva fare neanche se uno, capito? Poi c'ha, ci sono così tanti, sono arrivati a tempi a un ganso, fra. È brutto, molto brutto, capito? Io già non soffro, capito? Non ho di quei problemi. Un attimo, sono al telefono. Capito la tarì, io non ho di quei problemi. Va bene così. Vabbè, io non mangio la tarì, roba molto piccante, capito? Ogni tanto, ma no, io la mangio spesso. Sì, ma ci deve regolare con un peperone, dei buoni di pollo. Io la mangio e non mi fa niente se è giusto il peperone, ma se uno esagera, cazzo, subito mi bizzicheggia. Vabbè, sì, è altra cosa che è micidiale, che non mi dava. Vabbè. Sì, si rube valoni è rinfrescante, cazzo, c'è rinfrescante, ma incendiato la saluccia. Fatta rinfrescante, uia, se ci prendiamo lui il peperone è un veleno, Io c'ho il peperone messo fatto con lui, ma sai, ne basta un goccio, ma è micidiale, non ce n'è. Io pure l'avevo fatto quello. E la giudicherà tu. A professor Lorenzoni, che mia zia. Ma io non lo educavo, no, ma le do. Chi se non è una cosa di buone non si beva Roma. Allora il problema non sai cos'è, Natali, cioè il peperone fa bene. Però se c'è prima morrendo non è consigliabile mangiarlo. Perché è un casino, no? Capito tu. Poi che mi sono oggi ho fatto pasta in bianco, con pasta, cioè pasta al tonno, parmigiano e buco, tricaballate, poi al secondo l'insalata e una fettina di carne di cavallo, boh basta, metto un bicchiere di vino, boh, e basta, adesso a cenare alle 8:30, alle 8:15. Mia baby. La vinto, la bagata, sempre magna. Vabbè, io adesso peso 76 kg, prima ne pesavo 86 e ne sono sceso un bel po'. E vabbè, mangiamo disordinato, capito? Panini, saccati, uia. Ofa. Dimmi. Panini saccati. Non parliamo delle focaccine e due mortadella, prezzi. Cazzo, trete di mortadella, isso. Natali, trete di mortadella, una focaccia. Di donino, gli abigrigo. No, ci abbiamo diviso in due. Ma io sono andato ai miei lì, ha detto che ma cosa fai? Ma io ci sono posso vedere, l'ho entrato, quindi, allora cosa fa? Non mi ha trete di mortadella, ma dice la bella trete, e mi ha preso la boccata, non c'era, la possiamo aprire, ha pigliato la boccaccia a vanna, se appunto l'abbiamo tutta svoltata, perché c'era tutta la mollica, no? E se mi ha detto trete di mortadella, mi dai. E poi mi ragona, eh? Sì, via. Ma davvero, E poi ci siamo ricapitato un'altra volta e la stessa cosa. La mortadella buona c'è in via del portatore, c'è in quel negozietto, se c'è ancora, dove siamo andati di Natalino a comprarlo. Chissà, grazie, come non viene nessun luogo, non ha già ciappato nessun luogo già. Un profumo, gà. ma non lo so se c'è, ho capito qual è quel negozio che c'era più giù dal tabacchino, mi sa che è chiuso. E quel negozietto lì è, infatti l'ho raccontata sta lì, è chiuso, è chiuso. E anche il salame c'aveva buono, io me lo ricordo perché lavoravo lì, capito, quando facevo carrozzeria lì, andavo pure a fare a farmi l'urbanino, cattava una rete, la mortadella, il salame e tutto, capito? E ha chiuso quel negozio e c'erano mediani, Contavi tu già tu e a me mi ricappa la risa. Allora, una di volevamo andare a pescare in latta lì, la Castel Sardo. Abbiamo fatto, io ci facciamo tutto il giorno, ci facciamo un po' di panini e andiamo a pescare. Ci facciamo 5 panini a testa con la mortadella, vabbè. Quindi andiamo a Castello, Sardo, e arriviamo al molo lì, mettiamo le canne, ci facciamo e ci prendiamo i panini. Io una testa ci mangiamo un panino. Carta come siamo a mullà. E questo cane che ci ha detto e però vieni qua, prima cominciamo proprio da buon lascio. C'era due fuochi, l'avevamo umiliato, questo cane è fuggito. Le facci che però me li conservati. Che cazzo. Un adrono, gatta. L'ho raccontato a uno della Bismara che veniva da noi, un rappresentante, questa sera qua si è buttato lì, e mi ha detto, ricordati una cosa, che la mortadella più a profumo e più conservanti ci sono. Sì, si siamo avvisati già, ogni temporale era lì. Ma c'era un profumo in quel negozio, poi la tagliava con quella pezzatrice di quelle antiche a mano, vedi, quelle rosse che fa. Io credo sempre quella pistacchio che è buona, che la baghetta calda calda, ogni tanto me lo sfizzo, figlio e magno. In macchina c'ho coltellito, ta-ta-ta-ta, e me la magno. Do quello la vuoi fa. Io sono per le cose naturali, a pistacchio non le mangio, mangio quella normale. No, c'è un bel profumo, è buono stesso, che mi piace. Certo, ho preso la mortadella già rotonda, affettata, piccolina e confezionata, che gli trova sapore, la peggio appena affettata. Ma io compro praticamente, quando compro la mortadella, compro quella buona, quella suprema, non vi ne. Franco, ogni tanto si sposa, Franco è tutta la fame mia. La suprema è la migliore che c'è, secondo me. Fiorucci. Già, sbaglio il tipo della corona. La suprema è la più buona che c'è, per me la saporita, proprio, cioè il sapore della mortadella lo sì. Ma lo so tutti che c'è la suprema, no? Fatta andare dove c'è, io vado da Nonna Isa e ce l'hanno. Mi si fai venire la fame. Come? Mi si fai venire la fame. Comunque la suprema è con la mortadella che costa di più, però è buona. È come il prosciutto San Daniele, quello che costa di più, però almeno il prosciutto è dolce, non è salato, capito? Avanti il tartarino. Sì, in effetti è così. Un po' leccato, ma gatta, ma chissà mortadella, so che era un profumo, sia, gatto. Ti so che ti senti, Bonareddu, di passì. Come ci siamo arrivati, abbiamo fatto un panino, mi. Più largo. No, tutto il fico. Chi si va via, mi. Uno solo. Avevi comitato. Pensa lo cane è fuggito. A Giorgio. No. Nata lì. Anche quando entravi nel negozio il profumo si sentiva. Come entravi nel negozio si sentiva il profumo della mortadella. Ma la bella profumata. Il profumo io era vedo già. Ma da voi. E io quando prendo il prosciutto crudo sempre con il dolce, salaniere, perché salato non mi piace, poi noi specialmente dopo salata, nisba, io infatti cucino un po' pure. A me piace molto lo speck, più del prosciutto crudo mi piace. Lo speck perché affumicato, a me la roba affumicata mi piace un bel. Sì, lo vedo. A me piace anche il salmone, un filo di olio d'oliva e limone, ui ui ui. Il salmone è già grasso e si muore l'olio. Io ci metto col salmone appena appena di limone sopra e lo mangio così. È molto grasso il salmone. Vabbè, quando tu vuole vendere fettine fine a fine, ho già. Un pacchetto ce ne sono 200 grammi, credo che sia. Ma io non le metto di olio perché è già grasso di per sé, capito? Lo metto solo il limone io, basta. E a volte lo mangio anche così, me lo metto nel panino, me ne prendo una pappa, me la metto nel panino e me la mangio. Ma io metto una goccia, poi lo spalmo col cucchiaino e poi poi c'è tutto rimone. Quindi non è che ne metto un bel giro di messa scherzando, no. Ma un cc proprio una goccia e lo spavolo bene. Andà bene, oh dai, io mi sposto perché a qualche bussatura avete fatto venire la fame. Mi stuzzico qualche cosa. Ok, dai, vi ascolto. Ciao Franco, se ancora l'ascolto, se domani passi dal mondo, già ci troviamo giù. Ciao Antonino e ciao Gianni, buon proseguo. Ciao ciao. Ciao ciao Tony, ci sentiamo, dai. Buona continuazione. Ciao Tony, ciao ciao ciao. Non carica batteria e buon tutto e ce la riascolta. Dai, vedo un po' domani, faccio un salto. Ok, vai Natali. Ciao Tony, ciao, buonasera, buon tutto, le bruci. Ciao ciao. Iuia, per carità. Avete una nuova padre, non diciamo, mi prende la fame a me. E non c'è che non ti ne basta la merenda. Quando sei mancato, cosa stavi facendo? No, niente, niente, ho preso il carattino e buh. Ah ecco, allora qualche stuzzichino te l'hai fatto, là. No, io sono a stecchetto, mamma mia. 86 ce l'avevo oggi la glicemia. Ah, sono sempre a stecchetto perché se mangio qualcosa di più mi sta in pizza. Io avevo cercato di prendermi la pizza, ma non ne mangio. Domani vedo un po', oggi non ne mangio. C'ho ancora, non devo pugiare neanche di cenare. E io 4 pizzette al taglio me le mangio, oggi. Me le ordino. Oggi cos'è? Mercoledì. No, martedì oggi già. Le pizze al taglio sono buone da Giovanni, da Budige, mamma nonna. È brutto, ma quelle sotto casa sono meglio di quelle di Budige. Sono belle croccanti, proprio buone. Hanno proprio il sapore buono. Quelle di Budige ultimamente le ho prese e sono un po' insipide. A volte sono bambe, infatti. E poi la pasta è un bel giulla. Tu vieni sotto casa, fra, dammi retta. Però le fanno sino a giovedì. Il venerdì e sabato non le fanno. E vieni e le prendi sotto casa, costano 1,80€. Però, vabbè, te le portano anche a casa se vuoi. Si chiama pizzeria La Croccante. Provale e poi mi dici vero. Ma come le fa a tagliare la Giovanni? Al taglio pure le fa grandi, le fa al taglio, le fa piccole rotonde, le fa quadrate, le fa di tutti i tipi. Poi fa panini, fa tutto qua. Devo sapersi, allora se ne può prendere. Ci faccio un salto lì. Fa, ti sto dicendo che sono molto migliori di quelle di Fondi. Fondi che un po' le fa insipide, ma non prendo più gusto. Prima le faceva buone, adesso prima mi dava più mozzarella, adesso sta mettendo meno mozzarella e poi le fa bruciare, le brucia troppo. No, io qua mi sono trovato bene, da poco mica le sta facendo quadrate, però è bravissimo questo qua. Fa corsi, fa gare di pizzeria, roba del genere. È bravo, è un ragazzo giovane ma è bravissimo. L'altra volta che mi ha dato la pizza, per carità, c'era tutta buttata, era tutta cruda, per carità. Ma mi resta, scrivitelo, pizzeria La Croccante, poi lo cerchi con Google. Sì, carità. Ma anche a casa le porta, sì. Sì signore, anche a casa. Quasi quasi, ruggiamo e mi è rimasto a regare, che grande, non io voglio riuscirci. 910-58-39. Ah beh, Luca, cappa. Chiama questo numero che te le portano a casa. Infatti Luca, queste sono buone veramente. Poi a due passi, cazzo, se le porta da lì dalla veloce arrivi di freddo, invece da qua gli arrivano belle calde a casa, a due passi. E se gli ho dato il numero? Se sarà scritto non lo so. No, ma non è bello stasera tanto. No, stasera non c'ero. Mi sono appena troppo a mezzogiorno, adesso non ho voglia di cenare. Neanche io e Gianni mangiamo stanotte. Ciao già. Stanotte leggero. No, io sto cubriendo la pizza, ma cosa cazzo aveva ancora? La massa per l'invaria lì. Come non c'è acqua? Mi sbaglio, ancora niente qua. Diceva che doveva un'ora. E tardi, però mi ho pigiato male. Sicuramente si è sfasciata qualche condotta. Tanto Rosello era in zendi. Siamo senza acqua tutto il giorno, arriva alle 9:30, dice. Tutta la lì siamo senza acqua, a Innorabona. Che casino, ma no, io piacerò. Perché tu vai a rubare a Ponte Rosello? Se non vendaggio, metto in campagna e viaggio in campagna. la villella sulla Rubik. Allora. No, vabbè, ce l'ho riservato io sul tetto da 500 litri, ma ci sono andati per sciacquarti le mani, lavati così, no? A cucinare. Eh beh, sì, Boh, raga, io vi saluto, dai, sto andando via. Ci sentiamo, buona continuazione, ciao a tutti. Ciao Gianni. Buon correttivo, tutto con la carica, ce lo voglio ascoltare in prossima. Vai, da lì. Ciao già, buon correttivo, dai, che devo medicare il cane, ci sentiamo alle prossime, dai. Cosa c'è il cane? Si mi ha tirato, deve essere ammossi dove era stato operato un pezzo di cose, si vede, mamma mia. Adesso mi tocca a medicarlo. Oia. Carità, una qualche crosta. No, però deve essere leccandosi e magari con il dente ce l'ha torna scoperto. Bravo, ci sentiamo, ciao ciao, buona serata. Ciao già, ciao ciao ciao. Va bene, dai. Capito Luca. Sì, sì, capito tutto. Adesso domani preparo questa antenna di gomma. Vediamo un po', la termorestringente. Sì, con la antenna di gomma hai visto quanto va bene. Se va bene. Senza radiare il cui vero. Hai visto che va bene, anche la macchina. Sì, va bene, anche con la radio che va bene Luca. Sì, e allora, anche quella deve fare il suo lavoro, diciamo. Quando lo verificano, almeno non va neanche saturazione, nulla. Oh yeah. Ma io stavo facendo la foto di questo affitto. In vendita? Sì, il 48, sì, non se ne può. Sì, già lo vedi quello. Prima erano ricercati un bel quegli apparecchi. Un bel anno fa, tipo, forse 2-3 anni fa. Camionisti più che altro. Oh, guarda, anche in casa li stanno usando, modificati. Così. E quelli sparano forte. Non penso che i camionisti quando vanno in su, come le 200 watt di altri lavori, li intendi da lontano, arrivano in notte. Sì, e allora? C'hanno certi lineari, o Iuia. Però anche la radio, diciamo, già fa il suo lavoro, ecco, dai. E i lineari, antenne buone, anche un capo grosso, capito? Vabbè. Vai, le lineare va di Luca Bovini, si scioglie, capito? Tutto lì. Anche questo RG58 non serve a niente come capo. Ma lo RG58 non avesse proprio così in macchina, anche a casa se ne hai qualche metro così, ma non è che io il minimo che ho è l'H155. Non dico io ciò. Ehi, quello lì. No, io ho preso anche l'ultima serie, il Loveless Nero. No, conosco quello Luca. Io ho quello grigio. E infatti la calata la faccio con quello grigio, capito? Mi avrò una ventina di metri, già mi basta. Sì, sì, sì. Ma quello poco tempo stava rifettando, capito? Lucido purtroppo, però l'Ovlos è sempre H155 nero, però è l'ultimo quello che era fatto da poco, no? No, già ce n'è da un po', perché si è notato che l'altro poi col tempo dentro facevo la patina di ossido, capito? Avevo la patina verde, ma anche il 213 quando l'ho tolto c'avevo la patina lì io. Dipende infatti dalla guaina esterna, da tanti fattori anche. Dipende da come lo guarnisci, perché il piede quello guarnito bene con vulcanizzato, capito? Perché se passa un po' di aria e umidità ti crea quel problema lì. Allora. Ok, sentiamo domani. Sì, adesso io mi al computer e faccio un po' di quiz, un po' di lezione, e a voi, TV e a nanna. Allora, no, io ho appena spento, stavo facendo degli aggiornamenti. Appena spento, d'accordo? Ciao fra domani. Ciao dai, devo correre tipo tutto perché lo chiudo e devo fare cosa al computer. Ok, saluto tutti, per essere tutti belli, per me corretti. Alle prossime. Ciao ciao. Ciao ciao. È andato Tennessee. Tutti spariti.